acqua, sembra quasi una magia, a dispetto d'ogni età, i pensieri negativi voleranno via da te, il sapore dell'estate avrà il gusto del caffè. Guaraná, guaraná. Queste notti sono come il guaranà, eccitanti, un po' diverse, come sogno ma realtà. Noi sembriamo come un fiume riversati verso il mare, con uccelli senza fiume, noi vogliamo fin lassù. Guaranà, guaranà, che vacanza è questa qua? Guaranà, guaranà, a dispetto d'ogni età. Guaranà, guaranà, che vacanza è questa qua? Guaranà, guaranà, a dispetto d'ogni età. Cercheremo l'angolino più romantico che c'è, ti darò nuove emozioni ma non chiedermi perché. Sulla sabbia con il sole ci abbronziamo a sazietà, questo è ciò che il cuore vuole per gridare viva urrà. Guaranà, guaranà, guaranà, guaranà, guaranà, guaranà, guaranà, guaranà. Questi giorni e queste notti sono come il guaranà, eccitanti, un po' diverse, come sogno ma realtà. Noi sembriamo come un fiume riversati verso il mare, con uccelli senza fiume, noi vogliamo fin lassù. Guaranà, guaranà, che vacanza è questa qua? Guaranà, guaranà, a dispetto d'ogni età. Guaranà, guaranà, che vacanza è questa qua? Guaranà, guaranà, a dispetto d'ogni età. Este è il ballo dell'estate, se chiama Guaranà, Guaranà, Guaranà. Guaranà, mi guaranà, ti tira su. Guaranà, guaranà, guaranà, guaranà, guaranà, guaranà, guaranà, guaranà. Questi giorni e queste notti sono come il guaranà, eccitanti, un po' diverse, come sogno ma realtà. Noi sembriamo come un fiume riversati verso il mare, con uccelli senza fiume, noi vogliamo fiume.